ogni volta ci mettiamo a parlare di cose che vabbè, ma perché questo qua, come dire, visto che DS2 non l'abbiamo mai trattato, no, nel nostro podcast. Benvenuti. Benvenuti a tutti quanti. Altro, come dire, inizio fatto in mezzo a un piccolo mio rant che stavo facendo a Jacopo in questo momento. Niente. Benvenuti al 40esimo, lo sparo giusto stavolta? Possibile, ma non credo. E mi prendi sempre alla sprovvista, non mi dai il tempo di ricontrollare. 38esimo. No, è 38esimo, no. Sì. Sicuri, li abbiamo segnati tutti quelli prima? Abbastanza, sì. Sicuro. Ok, 38esimo, perfetto. E mi prendi sempre in contropiede, dicendo non mi dai neanche il tempo di ricontrollare il numero dell'episodio. No, che cazzo dico? E infatti, vedi che non è il 38esimo, è il 41esimo. Abbiamo skippato i due di Edoardo. Scusate, giusto, live. Quelli non li abbiamo segnati nei nostri elenchi. Allora fammi aggiornare. 41. Infatti, vedi che mi ricordavo che avessimo già superato il 40. Sì. No, benvenuti di nuovo al 41esimo esatto. Episodio del Focolare Elettrico, il nostro podcast su videogiochi e game design. Io sono Marco. Io sono Jacopo. E giusto per terminare il discorso, allora Jacopo ha di nuovo avviato la registrazione mentre io sto facendo un piccolo rant su Dark Souls 2, gioco del... Strano. Come dire... Strano, non se ne parla mai di Dark Souls in questo podcast. Come dire, della rubrica giochi che abbiamo giocato questa settimana, io così perché un po' mi odio, forse un po' sarà ancora la depressione, però ho platinato Dark Souls 2, Scholar of the First Sin, e stavo appunto dicendo a Jacopo che tutta l'esperienza me l'ha fatto rivalutare un po', che Scholar ci sta, è un gioco da 7, 7 e mezzo pieno, è ok, rimane ancora, a mio modesto parere, diciamo, il peggior, diciamo il più basso in classifica nella scala dei Soul, uscite dalla From Software. Stavo dicendo a Jacopo che alla fine la cosa che mi ha dato più fastidio era come certa gente l'avesse pagato 160 o 180 euro, non mi ricordo di preciso, però quando era uscito per via di tutta la storia di DS2 più DLC più Scholar, e che alla fine, come dire, è quello che mi dà fastidio, che la gente si dimentica che non è DS2 questo, quello che si sta giocando adesso, quello che si sta giocando adesso è Scholar. Non è DS2, perché DS2, l'originale, che tra l'altro ho scoperto c'è ancora su Steam e tutto quanto, pensavo l'avessero un po' rimosso dalla possibilità di comprarlo. Rimosso dalla storia, e dopo ne parliamo anche di questo. L'avessero, sì, diciamo, rimosso dall'elenco di quelli comprabili, almeno, che l'avessero lasciato solo Scholar, e invece credo ci sia ancora, se ho visto bene. Ecco, quello... No, DS2 versione originale più DLC, quello non entra nemmeno in classifica, perché quello lì è quasi un gioco alla fine che non si può definire quasi di un'azienda che fa giochi AAA adesso, praticamente. Quindi io gli stavo spiegando, cioè gli avevo risposto che effettivamente per me non è mai esistito Dark Souls 2, cioè ho sempre solo conosciuto Scholar of the First Sin, ed è per questo che per me comunque non è, cioè è forse il peggiore gioco della From Software, togliendo, vabbè, nel senso, il peggior gioco moderno, cioè post Demon's Souls, perché Demon's Souls non mi è piaciuto tantissimo. E perché tu non hai guardato i Kingsfield? Io ho guardato un po' anche... Anche quelli precedenti? Anche quelli sì, nel senso, giusto dato un'occhiata a vari gameplay e cose del genere. Tra Kingsfield e Dark Souls c'è un abisso, sì. Più di un abisso di differenza, veramente. E, no, beh, però dico, è comunque un gioco che rispetto al panorama dei giochi di quel genere, cioè come vogliamo chiamarli, cioè dungeon crawler, RPG, hardcore, non lo so, cioè non so come definire È un genere che magari è più grande, no, dei Souls-like, perché uno pensa, adesso pensa al genere Souls-like come un genere a parte, ma in realtà, diciamo, se lo guardi come genere più grande di, come dire, di giochi d'azione, di combattimento, eccetera, è ancora, penso, uno dei migliori in quella categoria. Quindi, cioè, nonostante i problemi che io ho avuto, ho imparato anche quello ad amarlo, come dicevo nella puntata quando parlavamo di Assassin's Creed Valhalla, Sindrome di Stoccolma. E, cioè, appunto, per me esiste solo quello, cioè non, quindi per quello forse non sono così... come posso dire? Incazzato. Giusto, no, per incazzato, dire, DS2 originale è stato il gioco che ha fatto abbastanza tiltare Sabaku, e se riesci a far tiltare Sabaku vuol dire che ci sei messo d'impegno. E quindi dici che dovremmo iniziare una rubrica anche le nostre lamentele sui Dark Souls? O... No, beh, in realtà questa rubrica era parte della nostra rubrica che cosa stiamo giocando. Cioè, tu in realtà dicevi che avevi ricominciato a giocare a Stardew Valley? O avevi cominciato? No, ci avevi già giocato. Ci avevo già giocato, tipo, che era ancora... parecchio tempo fa, quindi avevo saltato gli ultimi aggiornamenti e così, dopo aver platinato Dark Souls, non so perché mi era venuta voglia di un gioco più rilassante, anche se alla fine, per come lo gioco io, è sempre, come dire, rilassante fino a un certo punto. E così, stranamente, una strana voglia di Stardew Valley, proprio sai quando ti svegli e dici oggi c'ho voglia di... tortellini o qualcosa del genere, io mi ero svegliato con la voglia di Stardew Valley. E ci sta, hanno fatto degli aggiornamenti molto carini nelle ultime versioni 1.5, se non sbaglio, hanno aggiunto un sacco di robe, cioè io, quell'uomo, non ho idea di quanta ancora abbia, quanta altra roba ancora abbia da mettere dentro Stardew, perché, poraccio, lasciatelo riposare, povero concerne dei... Così no, vabbè. Tutto qui. Tu invece che hai giocato questa settimana? E... allora, diciamo, dall'ultima puntata credo di aver giocato anche a Hades, quindi parlerò prima di questo. Allora, Hades è... Allora, vi spiego. Io, prima di giocare ai Dark Souls, ci ho messo un po' ad arrivarci. Cioè, non mi sembravano... dei giochi per me, ho detto, beh, questi, cioè, questo genere di giochi che sono difficili, che sono frustranti, eccetera, perché devo rovinarmi il fegato per giocarli? Cioè, vedevo un mio coinquilino che ci bestemmiava mentre ascoltava Richard Benson che cantava i nani. Me lo ricordo anch'io quando Andrea giocava al DS2 originale, sempre. Esatto, bestemmiava. Infatti ho la scena stampata nella memoria, mi sa che lui era proprio al santuario di Amana, che dicevo prima. Ah, ok, quindi riporta tutto, perfetto. E quindi, diciamo, quindi io in realtà l'impressione negativa del Dark Souls 2 l'ho avuta indirettamente, quindi, cioè, per me erano giochi che non valeva la pena affrontare. Avevo già avuto un'esperienza in diretta con Ninja Gaiden, che avevo un po' lasciato perdere, non mi ricordo neanche se l'ho mai finito io di persona, però mi ricordo che io facevo il copilota con un mio amico, gli dicevo dove andare, avevo la guida sotto gli occhi e giocavamo insieme praticamente. Meglio di una corsa di rally. Esatto. Gira da destra 6. Comunque, l'idea è che a un certo punto ho detto: va bene, sono pronto, vado, mi butto, provo. E ho giocato da Souls 1, sono rimasto folgorato e ho capito. Cioè, qualcosa si è incastrato, diciamo. La stessa cosa penso stia succedendo con Hades, perché Hades è un gioco roguelike, però è forse. Allora, se non vi piacciono i roguelike, che sono quei giochi come Rogue, come si chiamano, abbiamo già parlato, no? Quindi tipo Binding of Isaac, così, dove tu fai una partita, muori, poi fai un'altra partita, muori, fai un'altra partita. Cioè, è un gioco che ogni volta che lo giochi cambia in maniera dinamica e è fatto per essere rigiocato tante volte, non è fatto per essere giocato una volta, finito e basta. Cioè, è fatto proprio per scoprire ogni volta nuove meccaniche, nuovi nemici, nuove configurazioni di stanze. Cioè, è molto, apparentemente da fuori è molto ripetitivo, ma in realtà è sempre nuovo, è sempre, come dire, fresco, rimane è un gioco che diciamo riesce, se fatto bene, a essere sempre nuovo, sempre un'esperienza nuova e introdurre sempre nuove meccaniche, anche indirettamente in base alla configurazione delle stanze. Quindi l'idea è che se lo guardate da fuori e dite che palle, questa cosa è ripetitiva, non vi ci avvicinate. Invece il bello di Hades è che aiuta i giocatori come me, che sono un po', diciamo, spaventati dai roguelike, con contesto. Cioè tu hai un contesto che, prima di tutto, appunto, è il discorso della ripetizione è contestualizzato al fatto che tu sei il figlio di Hades, appunto, quindi in realtà il protagonista non è Ade, il re dell'inferi, ma sei il figlio, Zagreus. E appunto il contesto della storia è che tu sei il figlio di Hades e di Ade e di Persefone, che ha scoperto di essere il figlio di Persefone perché non lo sapeva, e quindi sta cercando di scappare dagli inferi per trovarla, perché appunto lei è già scappata. Il problema è che Ade non vuole che tu riesca a scappare, o forse comunque, diciamo, anche l'inferno non è fatto in modo da lasciare scappare persone che sono dentro, quindi il contesto è questo: tu stai cercando di scappare, ci sono diversi, diciamo, livelli, diversi strati dell'inferno da superare, con diverse stanze, nemici, boss, eccetera. Ma il bello è che quando tu muori, perché è difficile, quindi inevitabilmente morirai diverse volte, torni diciamo, la stanza iniziale, principale, dove ci sono dei personaggi con cui puoi parlare, così, e c'è una storia che va avanti ogni volta che torni. Quindi morire non è tornare al menu iniziale, ma è tornare a casa, paradossalmente. Quindi è una sconfitta dolce amara, cioè ti incazzi perché dici cazzo, neanche stavolta l'ho finito. Però dici ok, sono contento perché almeno posso parlare con i miei amici, nemici, cioè posso accarezzare Cerbero, posso parlare con gente interessante o stramba, o litigare con mio padre, così, e alla fine c'hai questa storyline che si sviluppa in questi momenti. E la cosa bella è che anche dopo averlo finito, perché adesso l'ho finito la prima volta, insomma, sono riuscito a scappare la prima volta, non faccio spoiler. Ah, congratulations. Dopo, esatto, dopo averlo finito in realtà non l'hai finito, che è un'altra cosa tipica dei esatto. Giochi roguelike, perché non solo si aprono nuove opzioni di gameplay per rendere la sfida più interessante e più personalizzabile, ma anche la storia continua. Non posso dire molto, ma diciamo, vabbè, non voglio spoilerare, se qualcuno magari non l'ha ancora finito andatelo a giocare, perché diciamo che alla fine si può descrivere così: quello che pensavo, come dire, si pensava essere il finale, appunto, del gioco, è sì in parte un finale, ma è anche l'inizio di qualcos'altro, in cui, esatto, come dire, è una volta essere riuscito ad uscire dall'inferno, dagli inferi, non mi ricordo qual è il nome greco originale, però dal Tartaro può essere, vabbè, e uno pensa appunto di essere riuscito, di aver finito, di aver vinto il gioco, scopre che in realtà a quel punto la posta in gioco si alza, e l'uscire dall'inferno a quel punto diventa il requisito base per continuare a, diciamo, il racconto, continuare la storia. Quindi, sì, in realtà il racconto continua lo stesso, con altre forme interessanti di narrativa. Certo. Quindi, diciamo, ci sono cose inaspettate anche lì. Cioè, io sto scoprendo ancora cose dopo, che sono interessanti dal punto di vista della narrativa. Cioè, il mondo comincia ad approfondirsi, perché avevo l'impressione fino a quel momento che la narrativa fosse comunque interessante e bella, il sistema di dialoghi, appunto, che dicevo, che è sempre nuovo, sono sempre nuovi quando torni, le dinamiche fra i personaggi, eccetera, sono interessanti, ma la premessa sembrava molto, diciamo, scarna. Quindi pensavo, c'è sicuramente qualcosa di più, no? C'è sicuramente perché di solito c'è nei giochi di Super Giant, infatti c'è qualcosina in più, ma ancora non è tutto chiaro. Quindi, se un giocatore è soddisfatto, scusa, sentivo urlare qui fuori, Se un giocatore è soddisfatto con quello che è il risultato della prima run finita, dopo 30 tentativi nel mio caso, può finire lì. Se un giocatore invece è più completista, è più, diciamo, interessato da questo mistero, può scegliere di continuare, che per me è la migliore versione possibile di un endgame, no? Cioè tu hai la scelta di chiudere lì e decidere che questa è la tua storia o continuare e scoprire cosa sta succedendo davvero, no? Come la scelta di su Matrix della pillola blu, pillola rossa, diciamo. Cioè, puoi essere soddisfatto o no. E mi piace tantissimo questo. Cioè, mi piace che sia ancora di più contestualizzato quello che è il feeling di un roguelike. Cioè, essere soddisfatti. Perché tu puoi benissimo in un roguelike decidere che è troppo. I roguelike sono lunghissimi da completare, cioè per vedere tutto, per sbloccare tutto. Sono fatti appositamente per durare tanto, come un MMO, no? Quasi. E essere sempre rigiocabili, ma non per una cosa, diciamo, meschina come microtransazioni. Oddio, ci sono pure quelle per alcuni. Però nel caso di Hades è una cosa proprio di design. Per avere così tanta varietà, così tanta novità, devi per forza avere tanto contenuto, non c'è una scorciatoia, no? Non puoi avere dialoghi sempre diversi senza limitare la quantità di dialogo ogni volta, no? Ogni volta magari hai due linee di dialogo quando torni con un personaggio, quindi non è che... E quindi no, cioè mi sta piacendo tantissimo, appunto, non mi sta prendendo come magari un gioco di narrativa classico. Cioè la storia non mi sta prendendo tantissimo, o anche, cioè, il gameplay è stupendo, cioè il gameplay forse è il migliore che hanno mai fatto i Supergiant, che sono quelli di Bastion, ma ecco, bellissimo gioco, consigliato se avete Game Pass, è su Game Pass adesso. Però in realtà questo mi porta all'altro gioco che ho giocato, sì, che è Psychonauts 2, e merda. Marco, se riesci a giocarlo, cioè, farei una puntata solo su questo, però, cioè, è... Tanta roba? Allora, io ho gli occhiali della nostalgia, ho i nostalgia goggles, perché ho giocato il primo tanti anni fa, quando ero bambino, e è uno dei miei giochi preferiti, se non forse il mio gioco preferito della storia, che in realtà ho giocato poco, nel senso... Di solito uno dice, altro gioco preferito l'avrei giocato 50 volte, invece ora lo gioco tipo 2-3 volte e dovrò rigiocarlo un'altra volta ora, perché Psychonauts 2 è non solamente un seguito degno del primo, lo è anche senza gli occhiali della nostalgia, cioè riesce a essere... Allora, è molto old school, cioè è un gioco che ha meccaniche e ha struttura molto all'antica, molto molto all'antica, quindi se siete giocatori moderni, se siete ragazzi, se siete, cioè, persone che fanno un po' fatica a tornare indietro a queste strutture, così, cioè vi faccio un esempio, no? È un gioco che condivide tantissimo con cose come Mario Galaxy 1, che è un gioco del 2008. Quindi diciamo che come categoria lo mettiamo nei platform? Platformer. È un platformer come il primo. È un gioco che ha un sistema di combattimento molto più complicato di solito i platformer stile Mario Galaxy, stile Super Mario, nel senso che hai diverse abilità e devi utilizzarle in maniera corretta a seconda del gruppo di nemici che hai. Quindi il sistema di combattimento è molto superficiale ma abbastanza profondo da richiedere la tua attenzione, non puoi andare a casaccio, devi conoscere un po' il moveset dei nemici, devi conoscere un po' le debolezze, devi conoscere un po' come muoverti, altrimenti ti fanno fuori subito. Cioè, è un gioco molto facile, ma mi piace che sia abbastanza complesso da richiedere la tua attenzione, almeno. Che è un equilibrio difficile da ottenere, secondo me. Se il tuo obiettivo è essere un gioco approcciabile e facile, comunque deve essere un gioco che non ti annoia, e questo secondo me ci riesce, o almeno per me ci è riuscito, ma la cosa, diciamo, fondamentale è il platforming, ed è molto molto migliorato rispetto al primo, molto più, non so come descriverlo, frizzante, molto più croccante, molto più preciso, è molto meno difficile, magari è molto più facile prevedere che cosa succederà, dove atterrerai, dove andrai e così. Ci sono ancora alcuni problemini, vabbè, ma sono inevitabili perché appunto la caratteristica principale di Psychonauts è il design del mondo, il design dei personaggi e il design soprattutto dei cervelli, perché i livelli del gioco, quelli più grandi, sono... Ovviamente c'è un livello nel mondo reale principale, un'area bellissima, che esplorarla mi ha messo un sorriso enorme sulla faccia, però ci sono dei livelli che sono cervelli di persone. Se non conoscete il concetto di Psychonauts, tu entri nei cervelli delle persone e hai questi mondi che sono modellati in base a quella persona, alla personalità che ha, alle passioni che ha, alla sua psiche, alla sua vibe. E ci sono alcuni livelli in questo... Good vibes, Marco. Good vibes. Vibes. E ci sono alcuni livelli che sono incredibili in questo gioco. Cioè, non c'è nulla di così, diciamo, incredibile come nel primo, perché il primo appunto era ancora la sua epoca, aveva rotto un sacco di stereotipi e anche rotto un sacco di sistemi di fisica nel mondo. Cioè, è un gioco che non rispetta quasi nessuna regola. Cioè, hai porte che ti portano in altre parti del livello, che ci entri dentro in maniera senza, cioè, renderti conto, come in nuovo Ratchet & Clank. Hai mondi che cambiano gravità, che cambiano prospettiva, che cambiano... Cioè, addirittura tu, mentre cammini, puoi cambiare di statura. Cioè, non rispettano quasi nulla, pur essendo leggibili questi mondi. Hanno anche meccaniche che spesso sono solo in quel livello e lo rendono quasi un gioco a parte. Infatti, uno di quei livelli era un gioco a parte che stavano sviluppando ed è diventato un livello. Vero, me l'avevi raccontato. Non voglio spoilerare nulla, ma è fantastico. E soprattutto la cosa che mi ha più stupito, di cui più ero spaventato, è un gioco che ha un umorismo incredibile che funziona. Cioè, ovviamente questo dipende molto dalla sensibilità delle persone e da cosa fa ridere oppure no. Mi rendo conto che per molti possa essere molto cringe, specialmente perché a volte è difficile tradurle. Ho visto alcune battute tradotte, io l'ho giocato in inglese, però ho visto alcuni sottotitoli in italiano e alcune battute sono tradotte bene. Cioè, hanno pensato bene alla traduzione del gioco, che è una cosa rara pure questa. Ma ci sono talmente tanti dettagli, talmente tante cose di trama anche che si notano fin da su. Cioè, è un gioco iper, iper polished in tutti i sensi. È un gioco raro. Per il budget che ha, per il tipo di gioco che è un gioco molto raro. Se riesci ad accettare che è molto vecchio stile, se ti piace il tipo di umorismo, è uno dei giochi migliori dell'anno. Per me purtroppo lo è anche per la nostalgia, altrimenti forse non lo direi. Cioè, purtroppo non è un gioco che rompe particolari barriere, ma ci sono alcuni momenti, interazioni con personaggi, livelli, cioè proprio dei momenti che sono rari da trovare in un gioco. Momenti di... Cioè, è raro piangere e ridere nello stesso momento, è raro avere un gioco che ti fa appunto ridere con battute molto infantili, ma allo stesso tempo affrontare degli argomenti così seri e così attuali in maniera così leggera in senso positivo, no? Cioè, non leggera nel senso che è superficiale, ma leggera nel senso che non, che ti cala bene, che la digerisci bene, capito? È difficile, è molto difficile. Questo è un gioco difficile. È da fare, dico, non da giocare. Beh, ci voleva, no? Dopo un po', perché bisogna ammettere che forse è una cosa che è sembrata solo a me, ma è stato un po' deludente l'ultimo anno in quanto qualità di alcuni titoli usciti. Qualità. Ma Mettiamola così. sì, cioè dipende cosa intendi per l'ultimo anno. Se intendi da gennaio, forse un po' sì. Cioè, non sono usciti tanti giochi comunque in generale, nel senso non... Ma, cioè, magari adesso mi, come si dice, mi mordo la lingua perché, oddio, cazzo, questo gioco che è uscito quest'anno bellissimo me lo sono dimenticato. Però... Sì, neanche io, cioè, una lista, era giusto una riflessione così. Cioè, è un, diciamo, sentimento, è un sentimento che condivido, sinceramente. Adesso magari, come si dice, andando indietro riusciamo a ritrovare il... come si dice... il gioco che è uscito quest'anno che ci è piaciuto tantissimo, però appunto non è, come si dice, non è facile quest'anno, non sono usciti tanti giochi belli, insomma. Death's Door per qualcuno è stato un bel gioco, da Souls like isometrico, cioè non isometrico, vabbè, è un po' diverso dal solito. Per qualcuno Terminates, anche se in realtà molti lo hanno accusato di essere un gioco di merda abbastanza anche problematico, senza entrare nei dettagli. Ah, ho giocato anche Terminates, vabbè, non ne parlerò. La prossima volta, un altro episodio. A molti è piaciuto pure Biomutant, però è questo, secondo me, è più l'anno dei giochi che sono cose diverse per persone diverse. Magari c'è il super fan di Splitgate, c'è il super fan di Holy World, c'è il super fan di Biomutant. Io sono un super fan di Psychonauts 2, cioè, nel senso, ogni persona quest'anno avrà, secondo me, il suo gioco che dici quest'anno è per me è l'anno di questo gioco. Però fino a, appunto, ottobre, novembre sarà così. Poi magari uscirà Battlefield, Halo, Forza Horizon 5, usciranno tutti questi gioconi grossi. Questo è poi l'anno di Ratchet & Clank, che pure ha avuto abbastanza, diciamo, super fan appassionati, insomma. Forse è un po' il trend dell'industria questo adesso, cioè fare giochi che sono molto più nicchia. Non è una cosa brutta di per sé. No, mi piace come trend, okay, sinceramente. Cioè, piuttosto che continuare a cercare di inseguire Fortnite, Minecraft, questi qui, cioè, almeno c'è più varietà, perché appunto si cerca la community piccola e appassionata, piuttosto che tutti. Ma questo è un discorso che faremo con Edoardo, cioè con Bradipo nel canale Twitch, per un'altra volta, sì. Ok. Bene, mi fa piacere di non essere stato io quello che ha fatto troppo un rant oggi. Dovevo No, io, il rant su Psychonauts 2 era inevitabile, magari se... riuscirai a, cioè, se lo giocherai, se avrai voglia, assolutamente di giocarlo, mi metterò d'impegno a non ti sforzare, nel senso di trovare un modo di giocarci, perché... Ok, c'è Sabago che lo giocherà, penso, e Nerdcubed che lo ha finito, quindi vedete voi, sì, non ti preoccupare, non ti sforzare, fai come me, aspetta il momento giusto come con Aegis, poi perfetto. Quindi, allora, molto rapidamente, l'altra rubrica, è successo qualcosa di interessante queste settimane nel mondo del gaming? Ma, troppe cose, questo Infatti, mese. Cioè, a parte grandi compagnie che continuano a essere delle merde, e, come ormai dire, penso possiamo lasciar perdere quello, cioè, possiamo... Quello... Cercate Activision Blizzard voi, perché tanto ormai, cioè... Sì, ho sentito anche che la Sony ha avuto un po' di cazzi con una roba che ha fatto per il nuovo Horizon, che, se ho capito bene, sì, nell'upgrade, sì, è a pagamento, eccetera. Vabbè, ci sarebbe da dire pure di il problema di, come si dice, Control, che è lo stesso. Ci sarebbe da parlare di questo prima o poi, ma è un discorso più generale. Il fatto di pagare per passare da una versione vecchia a una versione nuova del gioco, ma quasi scholar. lo so. No, a livello di notizie di cui vale la pena parlare, boh, cioè, sono state presentate diverse cose alla Gamescom, ma secondo me è abbastanza deludente in generale, quindi preferirei evitare di parlarne, sinceramente. Cose divertenti che sono successe in questo mese, che mi hanno fatto abbastanza ridere. Allora, pensiamo un po'. Ah. C'è stata la famosa app di Abandoned per annunciarlo. Non l'avevamo. Ah, no, che... è stato prima dell'annuncio, mamma mia. Potevano chiamarla a piedi perché sono solamente dei piedi, cioè è solamente un video di piedi. E no, ah, cioè, penso hanno ammesso anche loro che penso sia stato l'annuncio peggiore della storia, cioè veramente la cosa, il reveal più brutto della storia. Mm-hmm. E... però a questo punto hanno anche perso un po' di, come dire, possibilità di grazie, cioè di pietà a questo punto, perché voglio dire, non è che non ci abbiano marciato sopra sulla tantissimo questione sarà Kojima, non sarà Kojima, eccetera, quindi come ma dire, ho convinto che lui si chiamerà nome, ci si cambierà il nome, chiamerà nome, cazzo dico, si cambierà il nome in Hideo Kojima, probabilmente il director. Quindi a un certo punto dovevano, no, pagare pegno, no? Quindi detto questo, dopo quanto quasi 30-40 minuti di introduzione, sembra un video di Sabaku veramente. Madonna. Ah, e aspettatevi un focolare elettrico 2.0. No, vabbè, facciamo questi discorsi in collaborazione con la Sony. Direi che possiamo a questo punto dire il titolo di questa puntata, che tra l'altro anche lì era rimasto mezzo in sospeso, ma devo ammettere che io puntavo per Select Server. Va bene. Mi piaceva, mi hai iniziato così, mi hai fatto partire la registrazione all'improvviso e allora decido il titolo. Vabbè, tu l'episodio. No, noi. Select Server, perché questo titolo? Beh, volevamo, o almeno io volevo, mi era venuta questa stramba idea di provare a parlare un po', come dire, in maniera più globale del mondo dei videogiochi, ovvero di tutte quelle differenze che ci sono tra una nazione e l'altra, che, di cui molto spesso, come mi sono accorto anch'io mentre facevo un po' di ricerche per questo episodio, la gente non è molto al corrente, magari non ci pensa nemmeno, magari, come dire, non è proprio la prima cosa che si sveglia al mattino e ci pensa. Però sì, quindi io ero partito proponendo la puntata a Jacopo come una specie di videogiochi nel mondo, no? Le varie cose che sappiamo al riguardo. Anche perché ho notato che sinceramente potremmo essere un po', come dire, dei pionieri sull'argomento, perché non ci sono, guardando online, nel senso, guardando online ci sono vari video per ogni singolo, diciamo, per ogni singola nicchia, no? Cioè, tipo, c'è il video che racconta un po' le differenze tra Occidente, tra il mercato occidentale, la Cina, il Giappone e l'Africa, sempre un po' tutto dal punto di vista dell'Occidente, cosa che sarà anche questa, perché noi, stando in Italia, è difficile trovare un altro punto di vista. Però non c'è una, come dire, non c'erano mai articoli che prendevano in considerazione tutto il mondo, era sempre una, come dire, una cosa di nicchia, guardavano un posto, poi un altro articolo guardava un altro, e così un po' tutto molto separato. Io volevo, per questo che forse abbiamo sparato anche in grande, come mi capita fare, magari provare a vedere quello, come dire, più globale, più appunto completa questa visione. Che ne dici, Jacopo? È follia pura o allora, tu hai trovato qualcosa di interessante? Io appositamente non mi sono preparato per nulla su questo. Ci eravamo ripromessi alla fine. Esatto, quindi nella mia testa ho deciso, senza chiederti nulla, che questo video sarebbe stato su, e qui e correggimi dove sbaglio e come sbaglio, quali giochi sono popolari nel mondo, quindi nelle diverse nazioni o continenti, quindi analizzare un po' trend diversi in base alle nazioni e le differenze che ci sono tra i videogiochi nei diversi paesi, no? Quindi, che ne so, per fare l'esempio, scusa, Wolfenstein, pronunciato alla tedesca. Wolfenstein, quello il nuovo The New Colossus, o anche quello vecchio, come cazzo si chiama? The New Order, non mi ricordo. Ah sì, ho capito. Hanno praticamente in Germania una censura sui simboli nazisti. Quindi che ne so, tipo, tutte le svastiche sono rimpiazzate da un simbolo specifico del gioco. Hitler non ha il baffetto e non viene mai... Hitler senza baffi è incredibile. Ma geniale, perché, bellissimo. Perché diciamo in Germania c'è proprio un divieto costituzionale che in realtà penso ci sia anche in Italia per il fascismo, non sono sicuro. Appunto, che siano leggi di Stato che impediscono, esatto, la rappresentazione di certe cose. Perché giustamente, e hanno ragione, cioè, sono abbastanza... Diciamo, no, hanno presente che... essere più cauti che... appunto, che rischiare di nuovo di diventare i cattivi. E quindi, cioè, pensavo a queste due, a questi due macro argomenti, e ovviamente nessuno dei due mi ci sono preparato, però nella mia testa ho pensato a questi due. Non so se erano questi i macro argomenti che volevi affrontare o se ho capito male. Non, di sicuro ci stanno, perché alla fine con le nostre risorse, diciamo, non è che possiamo fare un'analisi approfondita socio-economica di tutta la faccenda. Io sì, assolutamente, questo qua erano argomenti di cui volevo parlare, poi magari anche, diciamo, un'immagine più, non so se riuscivamo, più in generale, nel senso, perché ci sono alcuni mercati nel mondo, alcune zone di videogioco che hanno anche alcune sorprese, secondo me, che la gente che non si informa di queste cose può rimanere un po' sorpresa, no? Sempre per fare un po' di infotainment. Quindi... Infotainment, che brutta parola. Ok, molto quindi... bene. Da dove partiamo? Ci spostiamo? Direi che... Sai che ora che ci penso non abbiamo mai nemmeno parlato troppo... Ci abbiamo parlato delle nostre esperienze videoludiche, ma mai del mercato videoludico europeo, alla fine. Perché anche quella cosa lì della Germania, l'abbiamo detto adesso, non era mai saltata fuori prima, quindi... Vogliamo iniziare da casa e dire qualcosa sull'Europa? Abbiamo qualcos'altro... da aggiungere all'argomento? Ma io direi iniziamo ancora più in basso, cioè parliamo dell'Italia proprio. Ah, ci sta a espanderci, a fare un campo grande, un campo ampio, chiamiamolo così, un'inquadratura ampia. Vai. Okay. Vado io. Vai tu, nel senso, se avevi già qualcosa di pronto per l'Italia o... In Italia, che io sappia, non ci sono censure particolari in molti dei giochi. Un po' perché non ce ne frega un cazzo, cioè a livello diciamo statale, di cultura, eccetera, non abbiamo persone preparate e che ci si interessano molto. Solo ora con il lockdown, con il Covid, scusate, non devo dire la parola con la C, se non ci trovano e ci uccidono quelli di YouTube, anche su podcast. Diciamo che l'interesse è nato più con, appunto, persone che dal commercialista non sanno cosa mettere nella dichiarazione dei redditi perché sono streamer. C'è una bellissima intervista di una ministra con Paolo Cannone dove ne parlano, è molto, molto divertente. Però ecco, insomma, non essendoci troppe, come si dire, case di sviluppo che sono, diciamo, propriamente italiane, perché tipo appunto la Ubisoft dove lavoro io non è, come si dire, la casa madre non è italiana, ma è, mi pare, francese. Quindi ci sono pochi studi, diciamo, di rilevanza internazionale e economica italiana, anche dal punto di vista economico all'interno dell'Italia, quindi secondo me, e poi appunto ci sono persone molto vecchie a cui non interessano nulla al governo. E quindi, boh, non c'è particolare censura, quell'argomento lo lascerei perdere. Per quanto riguarda i giochi popolari in Italia, se dovessi tirare a indovinare, direi FIFA, perché l'Italia è il paese del calcio, GTA, GTA 5, direi, perché è famoso in tutto il mondo, Fortnite, League of Legends, perché vabbè, sono Fortnite, League of Legends, un po' pure Minecraft, ma poco, diciamo, direi questi. Forse fondamentalmente, forse anche per... Sì, insomma, mi stai dicendo che siamo delle basic bitch, praticamente. Sì, cioè in Italia siamo molto, appunto, per il discorso che facevo prima, no? Che non c'è censura, non ci sono giochi prettamente italiani o culture del gaming prettamente italiane. Ci si basa sul resto della cultura, che è il calcio, o su community molto grandi internazionali che quindi sono accessibili e appunto o gratis, free to play, insomma. Cioè, no, appunto, non essendoci questa cultura del gaming ancora, non abbiamo nicchie particolari italiane. Questa è la mia impressione, poi non so, magari... Sì, tu dici che in effetti in Italia c'è ancora poco questa cultura del gaming. Definisci anche un po' cultura del gaming. La cultura del gaming, intendo, no, non è visto ancora come qualcosa che è alla pari con il cinema. E anche il cinema, e anche il cinema in Italia ha fatto, cioè, sta un po' rinascendo ora, forse un pochino. Cioè, il fatto di investire nel cinema e di essere, come dire, più estimatori del cinema, no? Quindi avere un gusto, una coscienza nazionale di cosa ci piace, di cosa non ci piace, di qual è il gusto e lo stile italiano nel cinema, no? Quindi magari, che ne so, io magari puoi insultarlo quanto vuoi, però Perfetti Sconosciuti per me è un buon esempio di film italiano accessibile, non appunto d'autore, ok, che però porta qualcosina di nuovo che al pubblico italiano può piacere, non è, cioè, non so, perché appunto non voglio parlare di cinepanettone o altro, ma ci starebbe anche quello, no, come coscienza nazionale, solo che quello è andato un po' a scemare negli ultimi anni. Non c'è neanche, non c'è neanche quello nel gaming italiano, capito? Non c'è neanche il cinepanettone, non c'è neanche una cosa che noi come nazione possiamo dire, cioè noi l'italianità, la comicità italiana è questa, oppure, cioè, quindi non tu non dici solo di produzione da questo punto di vista, non c'è tantissimo quanto case produttrici. Tu dici proprio anche come sì, non abbiamo gusto una generale, e non abbiamo proprio neanche delle preferenze verso titoli che non sono famosi anche altrove, tipo in Italia, cioè, ci piacciono comunque i film Marvel, cioè siamo abbastanza globalizzati. Non voglio dire, cioè, nel male, nel bene o nel male, cioè nel senso in Italia non c'è una sottocultura o una preferenza generalizzata verso un genere. Magari possiamo dire in Italia ci sono molte più PlayStation che Xbox, quindi è più raro trovare il tizio che ha l'Xbox che gli piace Halo, eccetera, come sottoscritto, però non so quanto influisce, cioè nel senso, appunto, magari influisce sul discorso di quanti magari comprano un The Last of Us o Ghost of Tsushima rispetto a quanti comprano un Halo, magari influisce su quello, però... Sai cosa? Io ho sempre avuto l'impressione che in Italia andasse più forte che in altri posti in Europa la Nintendo. Non lo so questo. Non lo so? Non lo so, io ho avuto quell'impressione di, poi magari mi sbaglio. Un pochino forse sì, un pochino, ma non credo tanto. Cioè, non dico che siamo tutti malati Nintendo, dico solo nella media, siamo superiori alla media nella Nintendo. Comunque sì, cioè, nella cultura italiana direi l'unica cosa è la PlayStation, che diventa sinonimo con console praticamente, cioè in tutte le case. Ecco, vedi, invece da me, nella forse era un po' più la mia zona, era più, quando ero piccolo io all'inizio era il Game Boy, le console Nintendo, che erano diventati un po' sinonimo. Sì, questo di, è vero, però diciamo negli ultimi anni... Dice cambiata. Sì, quando senti in TV, quando senti parlare in TV, oppure cioè in giro così, senti più PlayStation come sinonimo di console. Forse è vero, forse un po' a inizio anni 2000 la Nintendo era molto più popolare in Italia di altre console, che poi sono arrivate anche loro, sinceramente. Ma non siamo, cioè in Italia non siamo grandissimi giocatori, non siamo giocatori PC, siamo abbastanza average, come dici tu, basic bitch, siamo abbastanza nella media. Molto in effetti media. Ora, allargando un po' il nostro scope, Nell'Europa quale definiresti quelli un po' più... Qual è la nazione europea più, diciamo, gamer? Perché io alla fine ero andato molto sull'internazionale, ma mi sono dimenticato un po' di guardare più Ah, più vicino a gamer casa. direi la Germania, a occhio, o la Ci Gran può stare. Bretagna. Vabbè, la Gran Bretagna non è più Europa, quindi ignoriamola. Giustamente. No, cioè a livello europeo geografico, Sì. diciamo, a occhio direi la Germania, non sono sicuro però, forse anche la Sai Svezia. forse cosa? Non ci si pensa mai, ma forse anche qualcuna di quelle nazioni un po' più, come si dice, più vicina alla Russia, quella Ah, zona sì, lì. Esatto. Lituania, sì. Quelle che ho Forse sì. scoperto nelle mie, tra virgolette, ricerche, è tipo, sono tra i maggiori, in questa zona almeno, con consumatori, utenti di giochi tipo World of Tank o cose del genere, forse anche quello delle navi, oltre a quello dei carri armati, che a me ha fatto sempre ridere vedere ogni volta le pubblicità su YouTube di questo gioca anche tu a World of Tank. E ho scoperto, a quanto pare, che in quella zona va parecchio, va proprio di brutto. Non lo so Pure. perché in Italia adesso mi metto World of Tanks. In Italia c'è un po' questa cosa, secondo me, come cultura diffusa che anche nei paesi dell'est, che spendere per i videogiochi è inutile, se puoi non spendere è meglio. Perché i Vero. videogiochi sono cazzatelle, no? Quindi, adesso ti ho triggerato, però, No, cioè, cioè, in... stai parlando della cultura comune, che purtroppo sono abbastanza ancora d'accordo con te, cioè, è ancora quello un po' il pensiero, soprattutto in Italia, in effetti c'è ancora questo pensiero che i videogiochi siano cazzatelle. Quindi, ecco, insomma, anche la cultura che c'è qui è un po' come quella in Russia, cioè, se puoi... Magari appunto giocare a un free to play è meglio, se puoi piratare un gioco è meglio, perché cioè è pesa un po', no? Spendere per i videogiochi. Poi magari c'hanno le mamme che spendono 500 euro al mese su Candy Crush, però... Queste frecciatine alla No, no, società. vabbè, ma io non sto dicendo, cioè è anche una cosa, come posso dire, un passatempo, una cosa su cui magari uno vuole spendere così, cioè sono anche... Altre motivazioni, però. Infatti, poi se ci pensi vuol dire che se i free to play alla World of Tanks sono così popolari in quelle zone, vuol dire che comunque devono anche guadagnarci, nel senso qualcuno spenderà di sicuro per qualcosa in giochi del genere, con un pubblico così ampio. Quindi lì è dove volevo arrivare con questa frase. Era per dire che sì, di sicuro più c'è molto quell'idea, ma poi ovviamente in mezzo a quelli ci devono essere anche le balene, no? Quelle che spendono Sì. E parecchio. in Russia ci sono. In Russia c'è tantissima cultura, come c'era una volta anche in Italia, o in Polonia, o cioè in altri paesi così, cioè dove si sfondano veramente di giochi craccati, hackerati. Cioè, noi diciamo craccati perché una volta, cari ascoltatori giovani, nei vecchi anni 90, Sono i nostri tempi. esatto, c'erano questi giochi che si chiamano craccati perché avevano una crack dentro, cioè tu scaricavi il gioco e poi facevi o partire un programmino che te lo craccava, tra virgolette, oppure proprio una versione craccata dell'eseguibile, che vuol dire craccata, vuol dire che aggirava i controlli della licenza, eccetera, eccetera, della registrazione della copia sul computer. Quindi viene da lì, cioè viene da questo crack.exe che c'era dentro ai giochi che scaricavi. E questa cosa c'è ancora tantissimo in Russia. Sono tantissime persone che proprio di lavoro fanno questo, cioè prendono i giochi, li rompono e ci fanno altra roba. Quindi è una cosa che da noi un po' è andata a scemare un po' perché appunto ci sono più giochi free to play, così un po' perché come cultura, insomma, siamo più abituati ora forse a comprarli con i vari sconti. E ovviamente i giochi che compriamo, che magari appunto ci sta quello che compra un Call of Duty all'anno o un FIFA all'anno e basta, magari gli altri che li comprano hanno sempre sconti, hanno sempre, cioè, a disposizione cose più facili, quindi è andato un po' scemando, ma in tutto il mondo, diciamo, come cosa. Che ci sta, voglio dire, cioè, forse è quello appunto, no? Quando si inizia a dare un valore appropriato a un media del genere, dopo la gente non si sente più nemmeno in colpa a spenderci un po' di soldi sopra. Ma non allarghiamo fin troppo i discorsi a questo punto, perché poi altrimenti ci perdiamo. E che altro dire sull'Europa? Che effettivamente, forse, almeno da quel che ho visto, a parte queste zone un po' più verso est, Europa centrale e ovest, in quanto gusti effettivamente forse sono tutti ancora un po' abbastanza basic bitch, come dicevamo prima, nel senso, alla fine quelli forti sono i famosi Fortnite, Minecraft, COD, FIFA e cose del genere, no? Se guardiamo anche tra le categorie di Twitch e tutti i giochi più giocati, alla fine ci si ritrova su quello lì, o sbaglio? Adesso che sto che ci pensavo, però abbiamo in alcuni paesi forse delle nicchie diverse. Nel senso, una volta tolti tutti questi titoloni, forse qualche nicchietta si è formata. Nel senso, adesso ripensavo, di tipo, ma cioè, alla fine è un po' come sono tutti dei grandi ecosistemi, quindi ognuno avrà creato il suo, come dire, la sua stabilità, no? La sua catena alimentare, chiamiamola così. Io penso a, cioè, magari non in tutti i paesi c'è un Sabaku, quindi non in tutti i paesi, cioè, no, ma sul serio, cioè, non tutti i paesi, secondo me è una grande fonte, lui, ma anche Yotobi, quelli sul server, cioè ci sono delle community che si stringono magari attorno a una particolare categoria di videogiochi, quindi, cioè, non è una sacca cioè, che puoi ignorare, quella che sta attorno, vero, magari a From Software in Italia, capito? Cioè, non puoi ignorare il fatto, e alla fine, cioè, se ci pensiamo, comunque, cioè, Sabaku è uno degli streamer italiani con più ascolti in Italia, quindi almeno per quanto riguarda il campo dei videogiochi, no? Per quelli che, non dico gli streamer più generali, con contenuti un po' più aperti e non così di nicchia, però tra quelli un po' più di nicchia è uno dei più grandi di sicuro, e la sua community gira tutta attorno principalmente ai giochi della From. E tra l'altro conosco anche che cioè, ci sono community non piccolissime intorno a roba come O Game o Met in 2, o cioè, cioè, nel senso, non poca gente giocava o gioca a quei giochi, cioè, che sono considerati più di nicchia, più all'antica, più vecchi. Quindi magari è una community che ora non c'è più, o è ridotta a poche migliaia di persone, però non in tutti i paesi, capito? C'è quella nicchia, ci sono nicchie strane in Italia, nel senso, non è, come dire, del tutto, o forse perché prima negli anni 90, 2000, inizio anni 2000 c'erano meno social, meno cose, quindi c'era più possibilità di creare una specie di sottobosco di gente per certe cose, non lo so, non saprei bene definire perché, però sì. Lì non saprei nemmeno dire, lì ci sarebbe bene uno studio su tutta l'evoluzione anche economica di tutta la questione. Magari il fatto che, ecco, vedi, io avrei pensato anche che magari, visto il un po' il ritardo, perché possiamo anche definirlo così, è abbastanza in ritardo forse in generale, dell'arrivo di internet, della banda larga, dell'espansione in tutta Italia, penso anche che, come dire, cioè, non mi sorprenderebbe se ci fossero anche community di giochi più single player, nel senso senza troppe modalità online, perché appunto magari molti riuscivano solo a partecipare più come discussione, cose e non attivamente. Bravissimo. C'era anche meno diffusione di giochi come World of Warcraft, secondo me, in Italia, per questo motivo. Bravissimo. Infatti in Germania, penso, una delle comunità più grandi è su World of Warcraft, se togli quelli principali, dico, no? C'è la Germania. La Germania ha tantissime comunità più, appunto, online su MMO rispetto all'Italia, dicono. E c'è anche un'altra cosa in realtà in Germania che mi stupisce, ovvero che c'è anche tanta community attorno ai giochi d'avventura. Ci sono aziende che non hanno quasi smesso di farli, e in un momento in cui non c'era nessuno a farli, cioè non c'era neanche ancora la rinascita un po' che c'è stata recentemente, perché prima di Broken Age, che poi c'è stato pure 12 Minutes dopo, cioè ci sono stati tanti altri giochi d'avventura ultimamente che prima del 2012, il Deponia, che cos'è? Tedesco. Cioè, nel senso, gli unici giochi di avventura quasi erano tedeschi, quindi quello non saprei spiegarmelo benissimo. Però, ora che mi ci fai pensare, già World of Warcraft e roba tipo appunto di MMO, hai ragione, cioè probabilmente questo fatto della... Anche poi O-Game non credo che abbia bisogno di una grande connessione internet. No, decisamente. No, io giocavo con, mi ricordo che con il 56K giocavo a Imperium, e giocavo in strategia, e poi dopo ne parliamo quando parliamo della Corea del Sud. Un origin story simile a Sabak. Mi ricordo che mi laggava pure la chat. La chat quella. No, cioè, poi c'avevo un amico stronzo, appunto, il conclino di prima, che giocava a Dark Souls 2, che faceva le cose zozze, tipo... In Imperium potevi mettere, in una versione potevi mettere tutte le unità di un tipo sovrapposte, quindi mi arrivava un tiratore di lancia egiziano, io dico ne è solo uno, invece ne erano 50.000, mi ha tirato una lancia e mi ha distrutto un palazzo, quindi molto, molto divertente. No, ma no, mi ricordo poi fare le partite con gli spagnoli era un'odissea, cioè lag infinita tra due paesi col 56K. Scusate, in memoria di no, ci sta, direi che hai illustrato alla perfezione la situazione a cui facevo riferimento. Un'epopea. Abbiamo altro da dire sull'Europa? Altri giochi che sono, non so, specifici, cioè che sono tipo, in questo paese europeo solamente c'è questa community, non saprei, perché tipo in Francia non ho notato, dici cavolo, questa cosa strana che solo in Francia si gioca. Ci sono stato poco, effettivamente, non ho avuto magari occasione di entrare più in profondità. Però tipo, anche lì ho visto gente giocare a Overwatch, a LoL, a Divinity Original Sin 2, dici che cazzo. No, ho visto tanti più giochi da tavolo rispetto magari all'Italia, c'erano tantissime case che li fanno, tantissimi giochi a tavolo belli che hanno fatto loro, cioè c'è più, magari c'è più quello. Per quanto riguarda i videogiochi non saprei, no, non saprei dire della Francia, anche per il resto d'Europa non saprei sinceramente. Siamo a qualcosa di più interessante, che l'Europa è una basic bitch. Sì, beh, effettivamente forse anche perché, visto che diciamo tutto il panorama del gaming è arrivato in Europa dopo che, come dire, l'Europa si era formata, no? Dopo che si era già abbastanza unificata tutto quanto, come dire, perché alla fine... Ah no, aspetta, ho qualcosa da dire, scusami. Prego. Prima di passare ad altro, ho due cose da dire che sono correlate. In Francia, e vabbè anche in Italia, è famoso il fumetto Asterix e Obelix, no? Cioè, giusto, sì. È una cosa che collega un po' Italia e Francia, perché È un po' una presa per il culo, diciamo, dei romani, della campagna di Cesare in Galle, però è anche, cioè, è divertente come fumetto in generale, quindi anche in Italia va abbastanza forte, ed è abbastanza un'icona che troviamo su, che ne so, ti compri un diario per andare a scuola da piccolo, ti compri, cioè, ci sono anche videogiochi, cioè, si trova, no? Ci sono film, eccetera. Mm-hmm. In America non esiste, nessuno, cioè, se vai in giro per strada, nessuno sa chi sono Asterix, cioè... Mm-hmm. Ma io credo che in America secondo me esistono molto, ovviamente, i fumetti americani e adesso un po' anche quelli giapponesi, ma le altre scuole del fumetto non penso che abbia la minima idea, cioè, nessuno di fumetto italiano e fumetto franco-olandese, credo, è una cosa che collega la Francia e l'Italia, tra l'altro, che uh-huh. anche in Francia vanno forti alcuni fumetti italiani, quindi c'è, cioè, anche il contrario è vero, un esatto. pochino tipo Zero Calcare o mi sa anche Pazzo, non mi ricordo. Quindi questa cosa un pochino ci collega, diciamo, nel fumetto. La cosa interessante è che per il cinema questa cosa è andata un po' a diminuire, nel senso che non ho notato tanti film italiani in Francia e non ci sono tanti film francesi in Italia adesso, magari prima era diverso, però, cioè, anzi, prima era la stessa cosa, cioè esisteva proprio il film italo-francese con attori francesi italiani che erano doppiati in entrambe le versioni, no? Tipo Amici Miei, tipo, vabbè. I videogiochi, no, cioè, nel senso, non sono mai... Perché in Francia ho scoperto che di videogiochi francesi ce n'erano un botto. Cioè, c'è stato un periodo in cui di videogiochi francesi ne facevano tanti ed erano pure, cioè, giochi che hanno abbastanza fatto la storia, di cui non se ne parla per nulla, cioè, giochi di avventura... Ah, tu dici giochi francesi che sono rimasti in Francia? Sì! Ah, non ne avevo la minima idea, sai? Anch'io! Cioè, andate a cercare, adesso non ne parliamo qui perché è un discorso un po' a parte, non mi ricordo benissimo i nomi, però c'è, cioè, gente che adesso è anche abbastanza importante a livello proprio nazionale, a livello anche internazionale, per quello che ha fatto. Cercate il video di Polygon dove parlano dei videogiochi francesi, è molto interessante. Non scusa, ora puoi andare avanti, scusami. No, assolutamente interessante. No, era giusto per dare una nota finale, era appunto che siccome, diciamo, la questione dei videogiochi è arrivata in Europa dopo che si era formata l'Europa vera e propria, no? Perché di sicuro il mondo dei videogiochi ha invaso, già per dire, dopo la creazione dell'euro anche, quindi... Forse è quello, è arrivato un po' tutti insieme, quindi effettivamente si può veramente iniziare a considerare l'Europa come quasi un unico paese sotto quel punto di vista. Sotto quel punto di vista. Hashtag Brexit. Hashtag Brexit, esatto. No, dicevo, quello che effettivamente mi aveva spinto anche un po' a proporre questo argomento per un episodio era, diciamo, un po' più le altre nazioni, cioè gli altri, quelle ben più lontane dall'Italia, e che se anche, come dire, già ci sembrano abbastanza aliene di loro, figuriamoci anche nel mondo dei videogiochi se non ci potesse essere qualcosa un po' di interessante di cui parlare. Da dove partiamo? Ci spostiamo più verso l'est, verso ovest? Io direi, se mi permetti, farei prima ovest, perché secondo me forse anche lì c'è un po' meno da dire, nel senso che alla fine, dicevamo, della cultura videoludica è arrivata, almeno l'ho sempre sentita in Italia, da due principali fonti, dall'America e dal Giappone, come, perché alla fine sono forse lì le due grandi... i due grandi colossi internazionali, no, in questo campo. Adesso si stanno aumentando i posti, ma all'inizio era così. Quindi in America, alla fine, forse anche lì, c'è, cioè, forse quello che ora come ora è abbastanza simile in quanto gusti ancora all'Europa, perché alla fine i giochi sono quelli, sono Minecraft, Fortnite, COD, gli spara tutto, Overwatch, che appunto c'è la Blizzard in America, e poi magari per i giochi sportivi lì probabilmente vanno più cose come basketball e forse football americano, un po' meno FIFA, perché il calcio non è fortissimo in America. Anche se qualche stream, secondo me, l'ho fatto un po' di FIFA qualche volta. Almeno questo era quello che avevo un po' visto io. Tu ti trovi d'accordo? Tendi a dissentire? Sì, anche lì, cioè, l'America del Nord è abbastanza banale, nel senso è quella che un po', appunto, detta il ritmo anche per l'Europa riguardo le tendenze videoludiche spesso. Appunto, come dici tu, ci sono giochi come Madden o appunto NBA, eccetera, che vanno molto più forte lì che qui. Certo. Anche, direi anche un po' il wrestling, perché da noi sì, è vero che c'è, ma è più una nicchia rispetto all'America o anche alla Gran Bretagna, quindi direi anche il wrestling, giochi di wrestling proprio. Altro, boh. Allora, secondo me qui vale un po' il discorso che facevi per l'Italia, cioè in America all'infanzia associano molto di più la Nintendo e di conseguenza secondo me c'è molta più gente che è proprio ultra fan nintendara fino alla morte e di conseguenza anche altra gente che ci si approccia per la prima volta, quindi secondo me in America c'è... È vero che in Italia abbiamo dimenticato di citare Pokémon e queste cose, ma in America c'è molto più Super Smash Bros., c'è molto più Mario Kart, nel senso Mario Kart vende tantissimo anche in Italia, anche in Europa, ma secondo me è proprio una cosa che tutti quanti hanno in casa in America, cioè nel senso è proprio ovunque, no? Mentre qui magari Pokémon Go se è arrivato e se n'è andato, lì so, cioè molti ancora ci giocano. È molto più secondo me culturale, cioè è molto più parte della cultura qualcosa come Pokémon o come Super Mario Kart, in America, da quello che so, magari mi sbaglio, però mi sembra... No, ci sta, in effetti sì, anche... Sai cosa, forse ultimamente la Nintendo è esplosa molto in America, prima... Ah no, anche in Europa. Prima! Ma no, no anche sì, prima. No, non ha senso, no, ci sta, anche prima in effetti... Ma no, cioè... Forse è andato scemando un po' il discorso di Sonic, cioè prima magari in America, in Gran Bretagna, Sonic era più una forza della natura, non credo che lo sia mai stato qui, cioè nel resto d'Europa. Sì, tipo, quello di come, sicuro. Come icona. La Sega dice tutto. Sì, sì, tutto il discorso della Sega, eccetera, eccetera. Sì, cioè, quando sento parlare di infanzia, di giochi dell'infanzia o di nicchie, appunto, lasciando perdere i gioconi principali, in America tantissime persone giocano a Final Fantasy o hanno giocato da piccoli a Final Fantasy, o comunque... Sai cosa, forse c'era anche una ben più grande cultura di MMO in America. C'è stato un periodo in cui World of Warcraft deve aver spaccato tutto in America. Sì, sì, sì, ma anche Counter-Strike, anche in Germania, però anche Counter-Strike, Overwatch, Dota, sono tantissime, le community sono molto più grandi intorno a questi giochi, sono più persone loro, però è come dici tu, cioè anche, quindi ci sono arrivati prima, sono più ricchi, sono community più ancestrali. Altro, alla fine, cioè, come dire, noioso. Non serve nemmeno tanto discuterne per l'America o Canada, perché alla fine, di sicuro, forse anche qua in Europa, sono tra le cose che si conoscono di più, nel senso sì, che tutti i maggiori streamer americani hanno anche seguito parecchio, secondo me, mi pare, in Europa e i nostri posti, quindi chissà. Come dire, si sa cosa si fa in quelle parti, no? E c'è anche poi, si vede anche che molti vanno anche di tendenza, nel senso che in America ci sono sempre quei periodi in cui un gioco esplode, ma questo forse sto generando, se sto dicendo dell'America una cosa più generale, questo non è vero, però sì, nel senso, alla fine l'America la conosciamo nel suo bene e nel suo brutto, E che altro si può aggiungere qui? Non molto, forse. Tra l'altro, l'America rispetto all'Europa ha anche più velocità nel formarle queste community, nel senso. Quello è vero. Magari rispetto all'Europa esce Apex Legends e il giorno dopo in America c'è la community formata. In Europa magari ci mettiamo un po' leggermente di più ad accettare qualcosa di nuovo. Nel senso, magari a volte esce un gioco nuovo tipo Valorant e noi diciamo tra amici decidiamo ok, ci giochiamo così, però solitamente ci vuole un po' di tempo per andare insomma al regime in Italia. Secondo me. Cioè in Europa in generale, però non sono sicuro. Quindi io mi sposterei allora forse in quelle zone in cui sono più non piccole, aspetta. Decisamente non sei. Ultima cosa sull'America, Sud America. Vai. Beh, sì, no, beh, sì, vai, di pure. No, prima di arrivare, perché so che tu arriverai al punto. Noi siamo No, stavo in realtà, guarda, forse ti avrei sorpreso anche, ma di pure Sud America. Ti avessi sorpreso? Oddio. Forse, adesso. Vediamo. Vabbè, prima... dicendo ci dovremmo spostare più a sud prima di andare a est. Ah, no, ok, mi avessi quasi sorpreso. Pensavo volessi arrivare al punto, al motivo per cui siamo qui. No, vabbè, perché lì lo tengo come... come finale. Per la finale, esatto. Allora sì, spostiamoci a sud, vai. In realtà ho visto, sempre guardando in giro, curiosità, ho guardato anche a quelle zone, come dire, che vengono un po' meno in mente per riguardo, soprattutto per videogiochi. Ho guardato soprattutto un po' l'Africa, che, vabbè, le zone più ricche, i paesi più grandi, poi c'è Egitto e il Sudafrica, proprio la punta dell'Africa Sud. Alla fine anche lì, come dire, l'ambiente si avvicina molto a quello più internazionale dell'America, dell'Europa, sono quelli che hanno più contatti, no? Però ho scoperto che in realtà c'è un po' questa, come dire, il gaming è espanso anche nelle zone un po' più povere dell'Africa, quelle un po' ancora meno globalizzate. È così. E beh, si è, come dire, è arrivato nel modo in cui ti aspetteresti, nel senso che non esiste l'internet lì, i computer da gaming di sicuro non se li possono permettere e ci sono tante scene di, come dire, quasi locali a modi arcade o cose del genere, in cui ci sono PS3, Xbox 360 e cose del genere che vengono condivise da tutti con giochi del tipo FIFA 2018, GTA 5 e cose del genere. Come dire, è affascinante vedere anche come un mondo che effettivamente è un po' del nuovo millennio, no? È arrivato anche ormai in zone abbastanza, mi piace dire remote, però un po' più, insomma, isolate dal resto del, un po' meno interconnesse con il resto del mondo. Ah, ma hai detto bene, isolate, hai detto bene. È quello, perché alla fine è quello, cioè non c'è internet. Le uniche, c'erano un video che raccontava come si giocavano giochi senza le ultime patch, senza gli ultimi aggiornamenti, proprio versioni su disco, quelle originali, perché ovviamente chi non potendo fare gli aggiornamenti devi prenderti la versione base sul disco. Oh no! E, come dire... Quindi Cyberpunk non esiste in quel momento. Scusate, ormai sto dando calci a un orso, sì, un cavallo morto. In realtà c'è, è questo, perché non, come dire, non è che si possa dire tanto qua, perché non è, forse è questo il punto, nel senso che non sono nate community, non sono nati business in questi posti come in America, in Europa, in Asia. E però è bello pensare come anche, come dire, anche queste culture, alla fine è un mondo piccolo, no? Per fare proprio il banale banale. È un mondo piccolo. Esatto. No, però Nel senso, secondo me proprio in virtù di questo isolazionismo, di questo isolamento, si vengono a creare culture interessanti, perché tipo in Brasile, per esempio, ci sono dazi altissimi sulle console, quindi tipo una PS5 costa tipo $1,000, cioè senza i bagarini, dico, costa $1,000. Quindi c'è... Wow, questo è... In Brasile League of Legends penso sia una forza della natura, cioè giochi gratis per PC così sono molto più accessibili di Fortnite su PS4, no? Cioè, proprio per forza di cose, quindi è vero che in Brasile ci sono tantissimi poveri, ma ci sono anche tanti ricchi, perché cioè, semplicemente il ceto medio non esiste, però appunto sono più le persone meno abbienti e quindi... vince, insomma, il gioco free-to-play per PC. Negli altri paesi, come dici tu, appunto, l'Africa, così, cioè, paesi ancora più senza internet, eccetera, sì, cioè, vince la PS3 e la 360, come dicevi tu, col gioco vecchio. Penso. È probabile anche che forse, allora, in zone, appunto, come dicevi, un po' più povere ma comunque più connesse, forse anche il gaming mobile probabilmente va più, più in altri posti. Sì, magari in Africa ancora di più, perché magari il telefono è una cosa più essenziale di un computer o di una console. Magari forse comunque più facilmente reperibile di una console, sì, da €1,000. Magari ci sono paesi più, cioè nazioni più ricche di altre, tipo Sudafrica, dove la situazione è più standardizzata, ma poi c'è il problema della localizzazione. Molti giochi non vengono tradotti in tutte le lingue, quindi a volte, vabbè, in Europa viene lasciata fuori per esempio la Russia, perché ha un alfabeto diverso, però cioè, è difficile tradurre in una lingua dove ci sono... pochi acquirenti, no? Cioè, è difficile giustificare tradurre in una lingua africana che non viene... Certo. Cioè, già trovare un gioco tradotto in Afrikaans è un casino. Magari sono fortunati, appunto, in Brasile, perché possono più o meno capire la traduzione in portoghese, che è praticamente quasi identico al brasiliano, da quello che ho capito. Cioè, il brasiliano è praticamente portoghese. So che molti si incazzeranno per questa cosa, però dovrebbe essere più o meno la stessa lingua, un po' come messicano o spagnolo. Quindi, cioè, magari sì, cambiano delle parole, cambiano delle cose, però se vivi in Sud America, di solito una versione che puoi comprendere c'è di quel gioco, magari in Africa no, capito? Quindi è ancora più complicato se non sai l'inglese, se non sai l'Afrikaans. Quindi sì. Grazie Zuckerberg per aver portato... No, no. No, grazie di niente, Zucker. Quindi io direi che arriviamo alla parte più, non so, beh, quella che da qui, come dicevo prima, è partita un po' tutta l'idea, la parte più sostanziosa di questo episodio, perché anche volente o nolente, uno che ha un minimo di, come dire, non per dire a questo modo, ma in generale, che si guarda un attimo attorno per quanto riguarda questioni internazionali. Poi si sorprende anche nel notare queste cose, se diciamo nella nicchia del suo interesse. Parliamo del mercato asiatico, in poche parole. Allora, forse il mercato asiatico è un po' generalizzante, perché alla fine li mettiamo sempre un po' insieme, però ci sono parecchie distinzioni, soprattutto tra paesi. Però forse la più grande divisione... I 2/3 grandi, veramente giganti della questione sono in particolare la Cina, il Giappone e la Corea del Sud, che sono un po', beh, si può dire, gli ambasciatori, no? Come dire, i tre grandi colossi che hanno più contatti con il resto del mondo, più o meno in quella zona, si direbbe, no? Allora non vorrei fare troppo il generalista, però... diciamo che con le mie conoscenze comunque limitate mi verrebbe da dire quello, soprattutto per quanto riguarda il mondo del gaming, almeno è probabile che ci siano altri paesi altrettanto interessanti. Corea del Ma Nord. Il gaming va forte, posso immaginare che ci sarà l'unico PC di Kim Jong-un collegato che gioca a LOL tutto il giorno. E... va bene. Dicevo, Corea, Giappone e Cina, questi tre grandi rappresentanti di questa zona del mondo. Qua è, insomma, è interessante guardare tutte le differenze che ci sono, perché da dove partiamo, Jacopo? Io sarò sincero, Cina la terrei per ultima, perché secondo me è quella che più, come dire, è quasi assurda sotto certi punti di vista, per un po' per tutto, incluso anche il gaming, quindi... Io partirei dall'India. Prego, assolutamente. No, ho solo letto che in India va fortissimo PUBG e non ho idea del perché. PUBG è Player Unknown's Battlegrounds, è un battle royale stile Fortnite, stile Warzone. No, in Cina, sì, partiamo dalla Cina. La Cina è interessante. Io ho detto Cina di tenerla per ultima, ma va bene. Ah, tenerla per ultima, scusa, avevo capito di partire dalla Cina. Ah no, io dicevo, partiamo dal Giappone, così dai, visto che ne abbiamo già anche un po', secondo me, introdotto tutta la questione nella famosa puntata riguardo le visual novel. Esatto. Perché, innanzitutto, già come genere c'è una sostanziale differenza dal mercato più occidentale. E effettivamente c'è... Si sembrano quasi complementari, perché in Giappone vanno soprattutto cose come visual novel, RPG, giochi di strategia, tutto quello che è un po' meno popolare, si direbbe, nella controparte occidentale. Poi adesso sono esplosi assolutamente anche LOL, di sicuro c'è seguito in Fortnite. E non so quanto è esploso Minecraft in Giappone, ora che ci penso. Cioè, ho visto di sicuro che c'è qualcosa, c'è di sicuro, come dire, qualche creator, qualcuno che fa video su Minecraft anche per il, come dire, il pubblico giapponese, però non ho molta idea di quanto sia esploso. Non ci ho guardato, ora che ci penso. Così, tu sei qualcosa al riguardo? O... No. No, ok. Dopo ci guarderemo, vi faremo sapere, lo metteremo forse nei commenti, chi lo sa. Quindi, dicevo, come prima cosa, innanzitutto questa differenza, loro molto più... ecco, un'altra cosa, loro sono molto, molto, molto di più per il retro gaming. E quello mi ha sorpreso tanto scoprirlo, perché... c'è proprio anche una nicchia attiva di indie developer che praticamente crea videogiochi non solo in stile retro, ma proprio anche, credo, per console da retro gaming, cioè, tipo per, credo... Game Boy Advance ancora. Ma forse anche più indietro, sai, tipo NES o quelle cose del genere. Sì. E quello mi ha sorpreso tanto, non immaginavo davvero che ci fosse... tutto questo mercato, questo interesse ancora per il retro. Beh, sono la sparo un'altra cosa molto generalista, sono più legati alla tradizione, questo è innegabile, cioè, sarà qualunquista come frase, però è vero, quindi forse chi lo sa c'è anche un po' quella mentalità lì del non so. Poi oltre a questo, che dire? Ci sono ovviamente un po' anche culture diverse, ma che si stanno espandendo anche qua, un po' come quella della classica figura dell'otaku, no? Quello del una persona che ha una particolare ossessione e la porta un po' anche all'estremo, almeno quello è l'immagine forse un po' più giapponese, ma che si sta un po' occidentalizzando anche in maniera diversa. E di sicuro esistono anche quelli riguardanti i videogiochi, ci sono, come dire, ci sono persone che si ammazzano in una particolare categoria o addirittura un particolare videogioco fino a, come dire, diventare esperti nel loro nel loro livello di abilità. Anche perché un'altra aggiunta a tutta questa immagine è il fatto che in Giappone soprattutto non sono sicuro del resto dei paesi, diciamo, asiatici, ma in Giappone sì, vanno tantissimo, ma veramente tanto, gli arcade. Gli arcade sono ancora una componente fondamentale di tutta la cultura attorno ai videogiochi. Infatti, come dire, sono una cosa che è faticosa immaginare, come dire, da descrivere anche qua. Ci sono videogiochi di tutti i tipi e non solo i classici magari da combattimento cabinati, ma ci sono anche videogiochi di strategia, di carte, a multipli giocatori nella sala giochi, cioè è una cosa molto più grande di quanto non sia nel resto del mondo. E infatti tutta quella, diciamo, come che dicevo prima, quella cultura dell'esperto, no? Di quello dell'high score, praticamente, di quelli che si ossessionano su un gioco e diventano bravissimi. I rating game vanno tantissimo in Giappone, quello è da dire. Io, come dire, queste erano le cose proprio più banali che valeva la pena citare per fare, come dire, un'immagine dall'alto, una veduta aerea del mondo dei videogiochi in Giappone. Tu, Jacopo, volevi aggiungere qualcosa? Ma una cosa che è collegata un po' a questa tua descrizione, cioè che non sono solamente le persone a considerare essere, tra virgolette, all'antica, no? Cioè ad essere, non all'antica, cioè a essere rimaste un po' al concetto della sala giochi, del tizio che si chiude in casa con giochi retro, così, cioè è un po' tutto che è rimasto come prima, cioè hanno quei generi che gli piacciono, sono anche, diciamo, poco aperti a giochi da nazioni che non sono il Giappone, quindi loro giocano prevalentemente giochi giapponesi su console giapponesi, tutto ciò che è straniero e che non è appunto giapponesizzabile lo schifano, quindi è proprio una cultura diversa, cioè nel senso, non so neanche se in Giappone è così famoso Fortnite, per dire, cioè per fare un esempio, nel senso è assurdo pensarci, però cioè è proprio un'altra categoria di, cioè un'altra nazione, non so, un mondo a parte. E quello, sai cosa? Forse c'è anche una questione del fatto che sono non completamente chiusi, ma un po' più chiusi, inteso che preferiscono i prodotti locali. Sono malissimo, però sì, preferiscono prodotti locali, cosa che tra l'altro abbonda, perché ci sono... tu dicevi prima dei videogiochi in Francia che sono rimasti in Francia. In Giappone non proviamo nemmeno ad aprirlo, questo argomento, perché... Parlavamo di non fare più liste, questa era un bel documento Excel di 5 o 6 pagine, ma ci saranno chissà quanti titoli sviluppati in Giappone da case un po' più indie per il pubblico giapponese e basta, che non sono mai uscite dal loro paese, quindi... No, cioè, sono tanti fattori, no? Cioè, il fatto che magari molti non sanno l'inglese, non hanno interesse a impararlo, hanno tantissime opzioni, tantissime cose che vengono prodotte lì già in giapponese, quindi non hanno bisogno di spaziare. Magari, cioè, io... Adesso ovviamente sta tutto un po' cambiando, anche lì si stanno già più internazionalizzando di prima, però fino a questo punto è stato così. Continua pure, non volevo... No, certo, adesso è molto diverso, però... Fino a 10 anni fa, cioè io magari appunto 10 anni fa compravo un gioco, c'era la possibilità che fosse in inglese e lo giocavo in inglese, quindi magari parte del motivo per cui ho imparato l'inglese è che c'erano giochi solo in inglese. Quindi magari appunto un gioco come Oblivion, vabbè in realtà Oblivion l'ho comprato in francese la prima volta, ma lasciamo perdere. Magari un gioco come Oblivion con la voce in inglese e sottotitoli in italiano, o un gioco come... che ne so, Pokémon, mi è capitato di giocarlo per sbaglio in inglese, e lì impari inglese, cioè nel senso, o almeno impari a giocarlo senza sapere che cosa sta succedendo. In Giappone è proprio, cioè, negli anni 90, inizio anni 2000, c'erano proprio versioni solo giapponesi di alcuni giochi, cioè ci sono, è assurdo perché ci sono giochi che sono usciti in Giappone, che non usciranno mai nel resto del mondo o che sono usciti solo ora, perché proprio non c'era la versione tradotta, cioè c'era solo in giapponese. Cioè, ah, sì. Gli sviluppatori sono giapponesi, scrivono spesso codice con commenti in giapponese o parole che non hanno senso in inglese, cioè nel senso, ci sono talmente tante barriere tra... Mi ha fatto ridere parole che non hanno senso in inglese. No, no, no, c'è gente che, ha provato a moddare Dark Souls e c'è impazzita perché con i kanji, le cose, cioè è incredibile. Quindi neanche da tanto tempo fa, cioè si parla di 10 anni fa appunto. Ah sì, Dark Souls 2011, quindi. Cioè è tutto quanto fatto, ovviamente non apposta, ma fatto quasi per tenere fuori appunto l'influenza... influenza straniera, e giustamente è anche difficile che un gioco, viceversa, un gioco occidentale finisca in Giappone perché c'è questa barriera enorme di tradurlo, e sembra una cazzata, ma tradurre un gioco da un linguaggio con l'alfabeto appunto romano al giapponese è una cosa complicata. Sì, anche farlo poi... se ci pensi, il giapponese soprattutto è un linguaggio che ha significati nascosti e esatto. nelle frasi che già ci non è, non ci sono, la gente non ha idea di quanti errori ci sono nei giochi tradotti dal giapponese al, in inglese solo per via di queste sottigliezze, di queste parole estremamente specifiche, quindi come si fa a tradurre espressioni, cioè devi tradurre pure, capito, magari c'è quello che parla con l'accento di, mo non lo so, dico una parola a caso, di Hokkaido, c'è quello che parla con l'accento di Yokohama, cioè accenti che poi sono collegati, cioè è un po' come tradurre un gioco che è stato fatto in Italia, che come parte della cultura ha il napoletano, con stereotipi napoletani, con, capito, cioè... Mo faccio un esempio. Pensavo stessi arrivando a quella reference o stavi generalizzando? Cioè, l'hanno gioco, fatto tecnicamente. L'hanno fatto, cioè sì. C'è un gioco, cioè tra l'altro c'è era un gioco... Era Nino Kuni, se non sbaglio. Sì, sì, sì, c'è un gioco che ci ha provato appunto a comunicare, ma in realtà anche roba tipo film cinesi come Shaolin Soccer o Confusion, che ci hanno provato nel senso a comunicare quella che era l'intenzione del film originale in base a come parlavano certi attori, certi... però è difficile, cioè non sempre c'è un parallelo, non sempre c'è... è difficile. Tradurre il giapponese e il cinese è difficile, in entrambi i versi. Quindi capisco pure che è complicato. Poi c'è anche il discorso della censura, che secondo me il caso più importante è un'altra nazione, però anche in Giappone c'è... In Australia sono famosi per le censure enormi, cioè giochi che proprio non escono, giochi che sono stati cancellati. Però l'Australia me l'ero un po' dimenticato dell'Australia. Sì, sì, no, l'Australia la censura è incredibile, però cioè, il discorso più interessante è che in Giappone c'è questo rapporto malsano, secondo me, un pochino ancora con la sessualità, cioè è un po'... Per quanto in realtà è presente in tutti gli anime, in tutte le produzioni e così, la sessualità, diciamo, l'oggettificazione della donna, personaggi ultra sessualizzati, anche maschili, così negli anime, però è strano quanto la sessualità, quella vera, cioè quindi proprio la, dico, i genitali, le cose, proprio l'atto sessuale e così, sia ancora tabù. E quindi magari qui poi mi correggi tu, però... Ma tu stai dicendo censura... Fuori dal Giappone o dentro il Giappone? Cioè, tu dici che i giochi vengono censurati quando vengono portati in Giappone? No, quando tutte e due. Fuori? Tutte e due, tu dici? Cioè, allora, allora, in un senso, cioè, quando dal Giappone vengono qui, è più raro che vengano censurati. Io sto parlando più della censura in Giappone. Ok. Non so farti un esempio specifico, però cioè sì. È come per gli anime, no? Cioè, come per gli sì, anime. Ma infatti dicevo, è quello che mi aveva confuso perché mi ricordo varie storie di come anche, per esempio, più classico Dragon Ball fosse stato censurato dalla Mediaset e cose del genere. Per cui anche quello, cioè, forse è questo conflitto. Boh, così tanto per quanto riguarda argomenti come sessualità e cose del genere, che è quello, se proprio far parlare due lingue completamente diverse anche sotto quel punto di vista, non solo del giapponese e inglese, diciamo, ma proprio anche un'altra lingua. Così. Quindi è strano, come dici tu, il discorso di Dragon Ball o di Sailor Moon, ci sono cose che in Giappone sono normalissime, Esatto. che magari da noi appunto per un cartone animato non lo sono, perché appunto viene visto più come una cosa per bambini, Esatto. e viceversa, cioè ci sono cose che appunto da noi sono esplorate in maniera meno, cioè meno magari, meno tabù, nel senso, forse anche come influenza europea, francese, eccetera. Che un po' va contro quella cristiana, magari in Giappone no, non c'è questo, boh, questa spinta per. Non lo so, è un discorso complicato che abbiamo già affrontato nella puntata di Episode 9, quindi. Spostiamoci più verso allora di nuovo verso ovest e sinceramente anche in quanto cultura, perché per quanto riguarda la Corea del Sud, che è un altro di quei punti, come dire, un po' un altro fulcro, diciamo, della cultura del gaming nel mondo, che rispetto di nuovo al Giappone è un altro posto completamente, perché lì invece c'è molto meno astio, molto meno chiusura rispetto all'Occidente, ed anzi, adesso una delle cose sembra quasi, viene anche forse ancora un po' memata questa cosa, però sì, c'è la cultura dei campioni di e-sport coreani. È assurda fino al punto da renderla quasi ridicola sotto certi punti di vista, ma perché lì è tutto preso in maniera molto seria. Tutto questo poi parte da anni ben più addietro, quando StarCraft ha spopolato in Corea, perché era diventato, quella è diventata veramente quasi ridicola come cosa, perché StarCraft è diventato una cosa proprio innestata nella cultura coreana. Ci sono, come faccio a spiegarlo? È quasi come dire, quasi come i cinepanettoni italiani, no? Che dicevamo prima. Cioè, se uno, magari non tutti sono fan dei cinepanettoni, ma tutto sanno cosa sono i cinepanettoni, perché sono diventati parte della cultura italiana. Stessa cosa un po' per StarCraft in Corea, che non tutti sanno, magari si interessano di StarCraft, ma se uno dice StarCraft, i coreani probabilmente sanno di cosa stai parlando, perché ha avuto un successo assurdo. E da lì poi è partita tutta la questione dell'e-sport professionale. Ci sono letteralmente scuole di atleti di e-sport Sì. che allenano giovani talenti, per poi farli partecipare nella scena internazionale a competizioni, eccetera. Lì è proprio competitivo al massimo. Beh, tutta la cultura un po' coreana è molto competitiva. E figuriamoci se anche nel gaming non sta fuori questa cosa. E quindi forse anche per quello, no? Per essere competitivi a livello internazionale non puoi chiuderti ai videogiochi internazionali quali LOL, Dota, Fortnite, cose del genere, che anche lì adesso vanno assolutamente. Sì, cioè è una nazione anormale sotto tutti i punti di vista. No, scherzo. È una nazione Dio particolare. santo. È una nazione particolare nel senso che è una delle poche nazioni, forse l'unica, dove il PC gaming è mainstream, tra virgolette, no? Cioè, avere un PC da gaming, giocare al PC. È una cosa che nel resto del mondo è più forse rara, invece in Corea del Sud è la norma. Appunto per il discorso che dicevi, no, di StarCraft, di LoL, Dota, Counter-Strike, adesso non so di preciso quali sono i titoloni più conosciuti in Corea del Sud. Sicuramente StarCraft 2 è quello più associato con la Corea del Sud, ma... Ah, io parlavo, cioè all'inizio parlavo proprio di StarCraft 1, che in Corea è scoppiato. Sì, sì, no, però dico adesso... Diciamo, adesso non... Ultimamente non saprei. Ultimamente probabilmente anche LOL e cose come Overwatch hanno fatto molto, secondo me. Sì, esatto, ci sono tantissimi internet caffè sempre pieni, yeah. linee diciamo di prodotti da gaming, cioè proprio personaggi famosi che sono famosi proprio in Corea del Sud, hanno proprio dei fan, delle fan in giro che li riconoscono, cioè dici cavolo, però è una cosa cioè, che è importante, nel senso avere personaggi riconosciuti, avere proprio delle celebrità, in realtà è importante, nel senso, per una forma d'arte, per una categoria di intrattenimento, appunto, come può essere i videogiochi o le sports. Quindi poi chissà quanti, a questo punto forse anche miliardi ci girano attorno, perché sì. Ma è bello perché appunto è un po', cioè adesso non so quanto sia favorevole l'opinione pubblica al riguardo, però mi piace che sia proprio una cosa come l'altra, cioè tu sei un giocatore sports come può essere un atleta. Sì, cioè. Tu dici, è forse uno dei posti in cui è stata più normalizzata questa cosa, sì. Forse anche perché hanno visto che, come dire, c'è gente che ci campa veramente con queste cose qua, quindi... Sì. Non so, mi danno l'idea di essere abbastanza pragmatici su questo, riguardo a questo, nel senso, no, adesso non voglio generalizzare troppo, perché non vorrei dire qualche stronzata, però, come dire, cioè, hanno visto che è un'idea che funziona, è un mercato che funziona, e quindi che male c'è, no? Per farlo, come dire, per semplificare molto il pensiero, mettiamola così. Siamo quindi arrivati al gran finale, al titano di quello che sembrerebbe essere questo ventunesimo secolo, che si sta, come dire, sempre più ingrandendo in tutti i modi possibili, tra cui anche in maniera quasi colossale in questo ambito. Dicevamo, ci siamo tenuti il meglio per la fine. E la Cina, parlavamo di situazioni strane in Giappone e Corea, Cina, da dove partire con la Cina? Perché è quasi letteralmente un altro mondo, visto... È letteralmente sì, un universo alternativo dove Thanos ha vinto. Vabbè. È quasi letteralmente un altro mondo, visto soprattutto la chiusura. È quello lo strano, perché no, bisogna definire quello, cioè che è una chiusura controllata, è quello il punto, perché non è completamente chiusa al resto del mondo stile Giappone, nel senso che preferisce stare sulle sue e non averci a che fare. No, la Cina ha a che fare con il resto del mondo, ma ha a che fare con le sue, diciamo, alle sue condizioni. Quindi si è creato letteralmente questo ecosistema chiuso del Cinese. No, secondo me il problema è questo. Cioè, non è il popolo che... cinese. No, di pure. Non è un ecosistema chiuso, secondo me. Cioè, non è... Il problema è che hanno creato un ecosistema a cui si è adeguato il resto del mondo. Perché la Cina è un rubinetto di soldi. Quindi, per dirla in parole povere, però cioè, sì, la Cina per i vari studios di film, per i vari sviluppatori di giochi, è impensabile ignorare la Cina come diciamo carica, come forza economica, specialmente per giochi multiplayer. Poi vabbè, con i single player narrativi eccetera magari non vanno forte lì, quindi puoi ignorarli ancora, ma ancora per poco, cioè nel senso. E già abbiamo visto come la Cina stia influenzando i film, diciamo, di Hollywood come contenuti, come creazione di poster, come storyline, come... Cioè, un film come Star Wars che esce in Cina non può avere un personaggio afroamericano come protagonista, non può averlo sul poster, non può avere contenuti che vanno contro appunto le ideologie, i valori del governo cinese, cioè deve glorificare anzi il governo cinese, la stessa cosa per i videogiochi, cioè mentre magari quello che abbiamo detto prima c'è, cioè, il fatto di Wolfenstein, scusa, che c'ha la censura in Germania, nel resto del mondo non ce l'ha. Un gioco che in Australia è censurato, nel resto del mondo si può giocare benissimo. Invece la Cina sta influenzando il resto del mondo perché è talmente una forza economica enorme che riesce a storcerti il braccio, a costringerti a censurare il tuo gioco per tutto il resto del mondo. Cioè, quando cambiarono... Proprio... Ah, ok, ho capito cosa intendi. Cioè, per esempio, no? Karthus. Karthus è un personaggio di League of Legends. Karthus in Turchia ha un aspetto alternativo, diciamo. Cioè, mi sembra che non ha, o forse proprio in Cina anche, non ha una fisionomia così scheletrica, perché Karthus di base è uno scheletro con una staglia, tipo la morte, no? Come rappresentazione della morte. Ma certo. La visuale, cioè l'iconografia del teschio non è così accettata come lo è qua. Ci sono tante cose strane in Cina che non vengono accettate, che non sono... sono censurate, come appunto questa iconografia del teschio, e quindi hanno un aspetto diverso. Ma per risparmiare su questi aspetti alternativi, in Corea, in Cina, così, ovviamente gente ha cominciato a fare design di personaggi che sono accettabili direttamente anche in Cina. Tipo, okay. O comunque c'è, cioè, personaggi tipo appunto in Valorant, design che sono più accettati in Cina, personaggi che sono più positivi perché sono cinesi, più personaggi con origini cinesi, più personaggi... Cioè, che ci sta, per carità, non sto dicendo che è una cosa cattiva, però comincia a diventare negativa quando diventa propaganda. Quando tu cominci ad associare il governo cinese con cose solo positive, cominci ad evitare argomenti o comunque personaggi più che sono problematici in Cina, che magari dovrebbero essere più rappresentati. Cioè, è problematico secondo me, perché se fosse, come dici tu, un sistema chiuso cinese, ok, questo gioco c'è solo in Cina, o questa cosa in Cina non la prendono perché è censurata così. Ma nel momento in cui tu non puoi più farlo, nel momento in cui tu cominci a bannare persone perché si schierano con la protesta di Hong Kong da un torneo di Dota, solo perché... per dirne una, giusto? Per fare un esempio, no. Che faccio? Cioè... Blizzard merda, scusa. Non sto dicendo che, cioè, dal punto di vista economico ha senso, perché se la maggior parte dei tuoi giocatori ormai sono là, sti cazzi, è solo che mi dispiace perdere qualcosa solo perché sta sul culo a Xi Jinping. Capito? Cioè, sì, no, quello fa paura per noi che siamo fuori, pensate. Infatti io quando dicevo in realtà sistema chiuso pensavo più, come dire, dall'interno, perché posso solo immaginare come sia. Ah, sì. Situazione. In realtà non posso neanche immaginarla, perché è quello il punto, è una cosa che poi non ci si ne accorge da fuori, che è veramente portata all'estremo adesso. Poi, senza andare troppo a parlare di polemiche attuali con riguardo, tipo, di quella cosa del sistema appunti in Cina, la cosa tipo del fatto che la Cina adesso sta controllando anche le ore di gaming dei suoi cittadini, eccetera, eccetera. No, vabbè. Non si può immaginare una situazione del genere da fuori, perché quello è il punto. Però, e questo volevo anche, non so, cercare di dare un'immagine dal punto di quel punto di vista nostro, cioè del videogioco, anche solo, che ne so, come piccola protesta pacifica, mettiamola così. Perché quando prima dicevo sistema chiuso, per quelli che ci stanno dentro è veramente un sistema chiuso. Sì, fino a... E infatti quello che tu hai detto tu del fatto che alcune aziende adesso stanno facendo personaggi per il pubblico cinese, perché è talmente un mercato ricco che dicono allora facciamolo così a posto, e il resto del mondo, visto che non ha di questi problemi, gli va bene così. Quella è la punta dell'iceberg, perché la Cina è un sistema talmente chiuso che io ho scoperto, sempre guardando in giro un po' per questo episodio, che la maggior parte dei giochi ovviamente non ci arriva, perché il governo lo blocca, certo, perché non vuole, titoli di un certo tipo all'interno. E quindi cosa succede? Succede che esistono all'interno della Cina studi che si occupano praticamente di creare versioni adeguate, tra virgolette, accettate dal governo, di videogiochi molto popolari all'esterno. Tipo, ho visto una copia di Overwatch, una copia... che cos'era l'altro? Forse era Dota, una cosa del genere. Comunque un competitor di forse League of Legends, cose così. Cioè, per dire che questa cosa è talmente accettata che esistono letteralmente le versioni cinesi dei... dei giochi, neanche fatti dalle... copyright. Sì, sì, neanche fatte dalle aziende come dire proprietarie del no, esatto. Perché comunque ci sta solo in Cina, per dire, è un mercato solo per dire che solo la gente all'interno della Cina riesce a finanziarti completamente un gioco praticamente a livello di Overwatch, per dire. Mi sembra anche di aver letto che i giocatori in media in Cina sono pari alla popolazione dell'America e del Giappone messe insieme, non di giocatori, proprio generale del americana e giapponese sommata, sono il numero di giocatori giapponesi. No, vabbè, è incredibile. È una cosa difficile da immaginare. E ho scoperto anche, sempre scusa, su questa parte del discorso, che molti indie dev cinesi partono ricreando praticamente copie di giochi popolari all'esterno, ma che in Cina non sono accettate, per dirne una. E questa mi ha fatto molto ridere come cosa, perché... Ma ci sono, sì, ci sono store alternativi, Steam cinese, cose alternative, cioè... Poi è un mondo alternativo. È completamente un'altra realtà. E poi, sempre per, come dire, differenze, un'altra cosa da... che uno non ci pensa, ma ecco, in Cina c'è veramente il mercato del mobile gaming, perché ancora computer e console, che di nuovo, il console cosa le porti dentro a fare se poi non c'hai i titoli che ci vanno, perché il governo te li blocca, quindi cosa servono? I PC sono ancora una cosa un po' molto... Cioè, esistono anche lì molti internet caffè stile Corea, stile Giappone, però anche lì un po' più limitato. Il mercato mobile va tantissimo in Cina. È uno dei... Io non so quanti... Non mi ricordo quanti miliardi facevano all'anno per il mercato mobile dei videogiochi. E queste, come dire, erano le grandi differenze del... Non differenze, queste erano proprio le due grandi, quasi, come le chiamo, anomalie, deviazioni dal resto del mondo, non lo so, dalla linea temporale del resto del mondo, sempre per stare in tema Loki, come ho affrontato qualche tempo fa. E poi, cioè, se vogliamo parlare della Cina, due parole sulla Tencent, la diciamo, o stiamo già andando troppo, rischiamo che ci entri la SWAT in casa? No, vabbè, Tencent è un altro discorso, cioè appunto è parte dello stesso discorso, ma allo stesso tempo magari possiamo lasciarci per un'altra volta. Cioè Tencent è un'azienda enorme che sta comprando tanti studios nel mondo. Può dire che sia, non si può dire, cioè credo sia il conglomerato, di l'azienda più grande al mondo di videogiochi, è quasi una cosa tipo l'equivalente forse della Google per quanto riguarda i videogiochi, per fare un'equivalenza, un parallelismo che si possa intuire. È un'altra di quelle belle super corporazioni, no? Se dicevamo prima di Cyberpunk 2077. Già il fatto che abbia tutto Riot Games e una maggior parte di Epic Games ti fa capire Cioè, quando un'azienda sola controlla due dei giochi più popolari del mondo, capisci che qualcosa non va. Ma e poi quando ti questa rendi azienda... conto... No, di pure. Quando questa azienda poi è cinese ed è collegata col governo cinese, capisci che qualcosa non va ancora di meno. Anche perché dicevamo prima che sì, un'altra cosa che ho scoperto, sempre informandomi un po', è che diciamo che il governo cinese blocca un bel po' di videogiochi, ma non tutti. Ci sono aziende che appunto, come diciamo prima, possono fare affari con la Cina. Il problema è che per farlo devono per forza fare accordi con industrie cinesi per fare in modo che almeno parte del ricavato poi ritorni al circolare all'interno di tutto quanto. E quindi la Tencent è anche quello, cioè è tipo uno dei colossi di collegamento tra la Cina e il resto del mondo, perché tutto quello che vuole entrare in Cina deve passare, per quanto riguarda il gaming almeno, non dico proprio tutto, ma la maggior parte deve passare per la Tencent. Sì, quindi... non c'è un concetto di io sono l'Ubisoft, vengo in Italia, no, non esiste. Quindi immaginatevi come se tutte le aziende più grandi del mondo dei videogiochi, di cui abbiamo parlato negli innumerevoli episodi di questo podcast, Ubisoft, Microsoft, Bethesda, e Blizzard, eccetera, eccetera, ho detto solo le più grandi, per avere una si unissero tutte, no? Diventassero una cosa sola, tipo versione finale dei robottoni dei Power Rangers, dei Gundam di Power Rangers. No, sto dicendo blasfemia, Voltron. Esatto, di Voltron. Quindi fa paura quasi, anche sotto questo aspetto, quello che... i videogiochi, no? Che sono una cazzata, giusto? Che sono una minchiatella, che sono delle stupidaggini. Anche lì quanto possano arrivare a essere potenti quasi, se lasciati un po' così, in uno stato del genere. Quanto non si possono utilizzare magari i media per influenzare il proprio pubblico. E quindi con questa nota, cioè io più o meno era questa, volevo chiudere con la nota, sai, sempre un po' distopica che mi piace, con cui mi piace concludere ogni tanto gli episodi per lasciare il nostro pubblico allegro e spensierato. Tu volevi aggiungere qualcosa, Jacopo, a tutto questo? No, sono amareggiato anch'io. Ah, ok, scusa, no, pensavo di essere caduto per un attimo. No, sono un po' amareggiato. Perfetto, quindi con l'allegria nel sangue siamo arrivati alla fine della nostra puntata, è questo che mi stai dicendo? Sì. Ok, no, con ancora il nostro momento preferito o no? No, questa volta non saprei cosa dire, mi spiace. Sicuro? Non so. Io ce l'avrei una cosa da dire. Vai, allora... E la sigla? Allora aspetta, trovo la sigla. E la metto in diretta. Anzi, no, la metto in post-produzione. Sigla! Kept you waiting, huh? Perfetto. Kojima è giapponese, nel caso, eh? E sappiate che in Giappone uno degli ultimi titoli usciti della saga di Metal Gear è un'esperienza, perché chiamarlo gioco un po' troppo, fatto per le macchine del Pachinko. Tutto qui. Volevo... È vero. Volevo ricordare ancora una volta questa cosa al pubblico. Quindi, ok. Grazie ancora a tutti quanti per averci ascoltato. Noi sempre felici della vostra compagnia. Io ero Marco. Io ero Jacopo. E continuate a giocare. Ciao.